Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. C'è una ragione che cresce in me, è una paura che nasce, imponderabile e confonderemente, che non si pente. E poi, per me, più che salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, la cultura, gli stili di vita che cambiano, mettendo al centro dell'attenzione e quindi delle notizie gli animali non umani. È la puntata numero 708 e parleremo di amministrazioni locali che danno la caccia ai lupi, di antiche e violente tradizioni da superare, di cinema e di libri. Sia la colonna sonora, sia la ricetta della settimana sono a cura del nostro Gabriele Palloni, rinomato chef cruelty free, nonché apprezzato DJ. Ancora qui, ancora tu. Dedichiamo questa puntata alla memoria di Lolita, l'orca che da più di 50 anni viveva prigioniera al Miami Sea Aquarium. È morta per una sospetta malattia renale proprio quando si stava avvicinando per lei un tardivo ma significativo trasferimento in un'area marina più confortevole dell'angusta vasca in cui è stata obbligata per così tanto tempo. Lolita, detta anche Toki, ha passato gran parte della sua vita a esibirsi suo malgrado per le folle di visitatori dell'acquario di Miami, dopo essere stata catturata nell'estate del 1970, quando aveva circa 4 anni, durante un periodo di rastrellamenti di orche che viene ricordato localmente come una vera e propria razzia. Un'orca ritenuta sua madre, Ocean Sun il suo nome, ora ha 90 anni e continua a nuotare libera con altri membri del loro clan nelle acque fra lo stato di Washington e il Canada. Una sorte che purtroppo non è toccata a Lolita. Da quando fu catturata, gli attivisti per i diritti degli animali hanno passato anni e anni a lottare per liberarla dalla prigionia, trascorsa in una vasca di appena 24 metri per 11. Facile immaginare quanto sia stata tormentata l'esistenza di Lolita, un individuo che pesava circa 2.300 kg. All'inizio di quest'anno, finalmente, e dopo tanti tormenti, la proprietà del parco marino, The Dolphin Company, e l'organizzazione no profit Friends of Toki avevano annunciato un piano per trasferirla in un recinto marino naturale nel nord-ovest del Pacifico, uno spazio più grande, più confortevole, ma Lolita non ha fatto in tempo a riprendere il mare. Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Onestatico d'affetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Non ci stanchiamo di ripetere che gli animali selvatici, nella società presente, sono gli individui più liberi. Ben più degli umani, costretti come siamo in modi di abitare, produrre, vivere sempre più stringenti e stereotipati. I selvatici invece vivono esistenze certamente difficili, molto difficili, ma anche autentiche. È per questo, pensiamo, che la guerra ai selvatici è una delle più dirette e concrete affermazioni di potere. Controllare, imprigionare, uccidere un animale selvatico, è la più alta e più pura affermazione di potenza, non potendo fare altrettanto verso gli esseri umani, per le regole che disciplinano l'esistenza collettiva. L'annullamento della libertà dei selvatici è quindi una sorta di rivincita di specie, oltre che una pur piccola, ma per chi la compie significativa, affermazione di potenza. Il Trentino, negli ultimi mesi, è stato teatro di una clamorosa, continuativa sfida politica ai selvatici, condotta dal presidente della provincia autonoma Maurizio Fugatti, che ha emesso numerose sentenze di condanna a morte per orsi e anche lupi, ingaggiando forti contese giudiziarie con le associazioni animaliste. Sulla stessa via, ma con meno irruenza e con strumenti giuridici che paiono più raffinati, sembra avviarsi la provincia autonoma limitrofa, quella di Bolzano. La provincia autonoma ha infatti emesso un decreto che definisce le zone di pascolo protette e apre la strada al cosiddetto prelievo, cioè all'uccisione di lupi, una specie protetta che rappresenta quindi una preda, nella logica di potere che dicevamo prima, particolarmente allettante. In pratica, pressoché tutti i pascoli alpini dell'Alto Adige, quasi 1500, vengono designati dal decreto come pascoli protetti, nei quali è impossibile sistemare protezioni adeguate per il lupo, per cui la protezione diventa la doppietta, che viene in qualche modo legalizzata, poiché gli organi amministrativi e giuridici hanno sempre escluso la possibilità di uccidere lupi, anche di fronte a predazioni seriali, se le greggi non sono adeguatamente protette. In sostanza, tutti i pascoli alpini vengono definiti impossibili da proteggere e perciò il lupo può essere eliminato legalmente. Questo è il sillogismo della provincia di Bolzano. L'assessore provinciale Arnold Schuller ha spiegato che nei mesi passati sono stati uccisi più di 40 animali da pascolo ed è stato chiaramente stabilito, ha detto, che le ferite sono state inferte da uno o più lupi. Un ordine di prelievo è più che giustificato. La guerra ai selvatici è dunque dichiarata anche in provincia di Bolzano, per quanto assai probabilmente sia destinata a mancare i suoi obiettivi. I lupi, cioè, continueranno a predare alcuni animali se le greggi resteranno incustodite e non protette con i sistemi di recinzione. È questa la storia che conosciamo del difficile rapporto fra allevatori e lupi. Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove. Siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile e inafferrabile, la tua assenza che mi appartiene. All'ultima corsa del Palio di Siena, due cavalli sono rimasti feriti e nonostante le rassicurazioni delle autorità, sono stati curati e tutto a posto, si è fatta incandescente la polemica con le associazioni animaliste che si battono contro questa manifestazione, giudicata dai senesi una tradizione irrinunciabile e diventata nel tempo anche un'attrazione turistica e televisiva. Stefano Corbizzi, portavoce del coordinamento delle associazioni animaliste della regione toscana, in una lettera aperta l'indomani dell'ultima corsa ha scritto che la città di Siena ha mostrato al mondo ancora una volta uno spettacolo violento e anacronistico, un evento che andrebbe eliminato per il maltrattamento inflitto agli animali. Corbizzi, gettando lo sguardo oltre i confini nazionali, aggiunge: «Ci scandalizziamo della Spagna e dei suoi macabri riti a spese degli animali, corride, eventi come quello di San Firmino a Pamplona. Invece dovremmo occuparci di ciò che permettiamo che accada a casa nostra, nella civile toscana, che tanto tempo fa insegnava qualcosa al resto del mondo». Il coordinamento animalista ribadisce quindi con fermezza: basta palio, basta giostre e quintane, basta sfruttare i cavalli per tornei anacronistici. Ci auguriamo una riflessione profonda da parte delle istituzioni, così come ci auguriamo che i turisti accorrano a Siena per visitarne il patrimonio culturale, non un palio violento che andrebbe abolito. È arrivato il tempo di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai. Emilio Maggio, critico cinematografico d'animo antispecista, da qualche tempo sta compilando per noi un lessico molto particolare riguardante gli animali da set, cioè la presenza degli animali nel cinema, con un'attenzione speciale al loro ruolo, sia simbolico sia concreto, nella realizzazione dei film. Ecco una nuova puntata di questa rubrica. Quelle precedenti sono disponibili sul nostro sito restiamoanimali.it. E tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. F come fantascienza. Per quanto la presenza di animali in carne ed ossa nel cinema fantascientifico sia scarsa o del tutto assente, il motivo che mi ha spinto a inserire il lemma fantascienza è stato dettato da uno dei film che ritengo forse fra i più significativi degli ultimi anni, soprattutto perché tocca in maniera direi acuta ed intelligente le due questioni che più mi appassionano e più mi ossessionano: il cinema e l'animalità. Questa relazione andrebbe affrontata con un approccio, diciamo, multiprospettico, in grado cioè di mettere in campo problemi estetici, formali, politici e last but not least etici, come questa mia rubrica si propone di fare. Ecco, Nope, il film su cui cercherò di dilungarmi, fa proprio questo, mette in relazione cioè il linguaggio del potere con la lingua franca della minoranza nera. Tutti i titoli del filmmaker afroamericano Jordan Peele, infatti, giocano con le parole da Get Out, esci, nel senso della condizione a cui razzialmente sei destinato, scendi nel mondo di sotto a cui razzialmente sei stato assegnato, ma soprattutto scappa dalla polizia, dai bianchi razzisti e dalla prigione sociale del ghetto, fino a us, noi, l'identità della cultura nera, mai riconosciuta dalla maggioranza WASP, ma anche l'acronimo che designa gli Stati Uniti d'America. Anche Nope, infatti, è un'interazione per dire no, che diventa, se usato con la dovuta enfasi, un esclamativo e plurale, basta. Il messaggio che Peele vuole mandare, anche attraverso i suoi titoli, è che bisogna ricominciare a chiamare le cose con il proprio nome. Questa riappropriazione risignificante del linguaggio del potere è il dovuto risarcimento alla confisca, alla negazione della parola al popolo nero che in tutti i film di Peele se la riprende con i dovuti interessi. È anche per questo che Peele usa i generi popolari dell'horror e della fantascienza, in quanto sono gli unici generi in grado di offrire e paventare realtà alternative allo stato delle cose prestabilito. Infatti Nope affronta tutte le questioni aperte da questa rubrica: la nascita del cinema come sinonimo di movimento animale, l'uso e l'abuso degli animali da set, la filiera produttiva del cinema strutturata sullo sfruttamento di determinati animali, per esempio i cavalli fanno il western, sono il western, lo specismo del dispositivo cinematografico, vedi ancora una volta la semiotica dei piani delle sequenze concepite solo su un'ideale figura umana, il razzismo della grande macchina di costruzione dell'immaginario collettivo che è Hollywood. Peele usa quindi la fantascienza per reagire in qualche modo alla razionalità tecnocratica degli attuali regimi neoliberali che usano media e cinema per propagandare l'idea che il mondo in cui viviamo sia il migliore dei mondi possibili, un mondo in cui è sempre più problematico distinguere il vero dal falso, la realtà dalla fantasia, il guardare dall'essere guardati, ed è proprio l'animale, totem e tabù, su cui si concentra la distopia del filmmaker afroamericano a costringere lo spettatore a chiedersi perché continuiamo a guardare gli animali e in che modo continuiamo a guardarli. La storia narrata è scandita dai nomi dei cavalli addestrati appartenenti alla scuderia Haywood, si noti all'assonanza con Hollywood, che fornisce forza lavoro e prestazione attoriale animale ai set fin dalla preistoria cinematografica. I cavalli reclutati e noleggiati per i film rappresentano sia le immagini movimento, immagini lavoratori messe a profitto per ottenere plusvalore, sia la nascita del cinema e la sua trasformazione nel più grande spettacolo di massa della storia umana. Il regista lo esplicita inserendo alcune immagini di repertorio tratte proprio dagli esperimenti proto-cinematografici di Muybridge, note con il titolo di Animal Locomotion, in cui si sfrutta il movimento di alcuni cavalli al galoppo per testare l'efficacia del mezzo di riproduzione della realtà, aggiornando così la macchina della verità della già rodata tecnica fotografica. La relazione tra specismo e razzismo viene poi suffragata storicamente con il fatto che a cavalcare i cavalli usati dal fotografo inglese sia stato un fantino di colore. Quindi le prime star del cinema sono state un negro e una bestia. La geniale equazione di Peel sottolinea, se ancora ce ne fosse bisogno, come i membri della comunità transatlantica schiavizzata subissero veri e propri processi di animalizzazione che li assimilavano agli animali domestici e agli animali da reddito. La storia dell'industria cinematografica americana è dunque anche la storia del cinecapitale, ovvero la storia di come il regime delle immagini impone la retorica del lavoro, servendosi del vivente che gode di minor diritti sul mercato della domanda e dell'offerta dei corpi disponibili. Lo specismo, il razzismo e il colonialismo di cui sono intrise le immagini hollywoodiane non fanno altro che naturalizzare i processi di dominio e di oppressione della cultura dominante. Nel prologo del film, infatti, assistiamo in anteprima a uno stralcio di sequenza tratta da un'immaginaria sitcom di successo americana, Gordy's Home. Gordy è il nome dello scimpanzé adottato da un'esemplare famiglia americana middle class, e in questo senso Gordy è un attore, un animale da reddito che però interpreta un animale d'affezione, un animale domestico. Il regista americano ci fornisce quei pochi elementi che ci fanno intuire la tragedia che si compirà poi nel corso del film. Lo scimpanzé farà strage infatti dell'intero cast umano della serie televisiva all'infuori di Joop, il bambino della famiglia. Il saluto rivolto a Joop, pugno contro pugno, che cita l'iconica immagine del dito contro dito di E.T., con cui Gordy prende commiato prima di fuggire dal set, è segno di manifesta ribellione verso un sistema e un immaginario totalmente disilluso sulla possibilità di costruire alternative di liberazione. In questo senso la fantascienza ritrova la sua vera vocazione, quella di immaginare occasioni favorevoli di riscatto nell'ambito delle strutture imposte, votandole strategicamente dall'interno. Il cinema di Peel è dunque in grado di instillare nello spettatore i turbamenti dell'arte, servendosi proprio di quelle pratiche basse che costituiscono in fondo l'arma più potente in mano all'industria culturale nella costruzione del consenso, e lo fa fantascientificamente senza abusare di animali fantastici o di bestie mostruose. Amarti ma fatica malinconia, che vuoi farci? È la vita, è la vita la mia. Stiamo proponendo da qualche settimana questa parte delle speciali proposte di lettura, firmate dai nostri principali amici e collaboratori. Sono conigli di lettura, come li abbiamo chiamati, togliendo volutamente la lettera S, che speriamo possano contribuire ad accrescere la cultura animalista e antispecista di chi legge, magari con il favore degli ozi estivi. I conigli di questa settimana sono di Francesco De Giorgio, etologo antispecista e fondatore di Sparta, la riserva dell'animalità, che abbiamo visitato proponendo un reportage in più tappe. reportage che sospendiamo in attesa di riprendere la prossima settimana con la terza puntata. Sentiamo De Giorgio. Non sono una signora! La maggior parte delle pubblicazioni antispeciste sono fatte in Italia. Noi spesso ci consideriamo il fanalino di coda di tutto il mondo. In realtà, nel campo dell'antispecismo e delle pubblicazioni riguardanti l'antispecismo, noi siamo sicuramente in una posizione più che avanzata, se non i capofila. Massimo Filippi si può dire che tra gli autori più ricchi di pubblicazioni riguardo all'antispecismo. Di Filippi vi volevo consigliare un libretto piccolino, è stato pubblicato da L'Ortica, che pubblica molto sull'antispecismo, ed è il librettino Sento dunque sogno, frammenti di liberazione animale. Settantina di pagine molto piccole, porta nel sogno, illumina pezzi di animalità, vi fa sprofondare in senso positivo nel ragionamento, nell'articolazione del ragionamento antispecista. Poi c'è di Marco Reggio, c'è l'ultimo Cospirazione animale. Per me ha una valenza importante perché Marco pone l'accento sul discorso dell'animale visto come un cospirante, quindi animale con una certa agency, un animale protagonista e resistente, non semplicemente, come spesso racconta l'animalismo, una vittima, ma uno che pone resistenza all'oppressione, quindi attivo nell'oppressione con un'azione diretta verso l'oppressione. L'altro libro è quello di Jason Hribal, tradotto dalle amiche Barbara Balsamo e Silvia Molè, uscito credo un paio d'anni fa, a cui io ho dato un contributo scrivendo una postfazione. Vi vado a leggere l'inizio della mia postfazione, che racconta il libro di Hribal, che è Paura del pianeta animale. Anche qua, già nel titolo, vedete come l'attualità in questi tempi così oscuri per l'animalità, per la fauna selvatica, emerge prepotente questa paura del pianeta animale, che è una paura culturale, non psicologica, è proprio imposta da una determinata cultura dell'oppressione, della negazione dell'animalità. E quindi io nella postfazione scrivo: Jason Hribal ci guida in un viaggio nella resistenza animale, cruento quanto avventuroso e straordinario. Ci introduce al concetto della dimensione animale, l'anglosassone Animal Agency, come lo stesso Hribal riporta nel testo, ovvero una delle principali caratteristiche etologiche che fa di ogni animale non un mero oggetto che reagisce al mondo, ma un soggetto agente verso il mondo, in accordo con una propria logica, logica che noi animali troppo umani scegliamo di perdere, una propria soggettività, una propria piena e ricca animalità. Poi andrei alla raccolta che è stata fatta da Liberazioni, che è una rivista famosa di critica antispecista, per il 50° numero pubblicato, e dentro c'è una raccolta di brevi scritti di tantissimi autori, non solo antispecisti, 50 prospettive per 50 sfumature di antispecismo e animalità, sicuramente da cercare di recuperare. Liberazioni, rivista di critica antispecista, autunno 2022, 50° numero. Sogno di te, perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. Un'altra cosa che non c'entra niente con l'antispecismo, ma ci può rientrare se noi vogliamo facilitare delle coesistenze, è che pensare come un mago, risolvere problemi con il pensiero illusionistico. In realtà anche tanti animali usano il pensiero illusionistico. Il pensiero illusionistico non è una mera azione del pensiero umano, ma appartiene a tantissime specie. Sviluppano proprio per superare momenti di criticità, ma anche per rispondere ad alcune esigenze. Quindi pensare come un mago animale, direi, di Matteo Rampin. Facilitarsi la vita animale attraverso il pensiero illusionistico. Un altro libro che però, diciamo, è più un book fotografico con degli scritti interessanti è quello di Joan MacArthur, Captive, che in questo periodo storico dove vogliamo vedere tutta la fauna selvatica rinchiusa dà una prospettiva reale e oggettiva di come vivono in cattività gli animali e quindi è un'immersione per un risveglio sull'importanza della liberazione anche della fauna selvatica. Finirei con il libro Liberazione totale di Stephen Best, con il sottotitolo La rivoluzione del XXI secolo, come non leggerlo. Tutti questi testi che ho scelto, che sono molto diversi gli uni dagli altri, però hanno poi un filo conduttore molto importante. Quindi ora vi saluto, un abbraccio a tutte e a tutti. Le mani forti adesso mordo e per un attimo ricordo che un tempo forse non lontano qualcuno mi diceva t'amo. In un addio svanì la voce, scese nell'animo una pace ed è così che da quel dì io son seduta e ferma qui. Gabriele Palloni anche questa settimana propone una delle sue mirabolanti ricette, pensate ogni volta a partire da uno dei temi trattati nel corso della puntata. Vi ricordiamo che Gabriele è autore di un libro, Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Un libro che consigliamo per la qualità e la quantità delle ricette di facile esecuzione che contiene e anche per il prezzo assai contenuto. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Arriva dalla Florida la ricetta che vi racconto oggi. Un dolce goloso, rivisto e corretto in versione vegetale. Gli ingredienti per il Key Lime Pie sono: per la base 350 g di biscotti vegan tipo Digestive, 50 g di zucchero di canna e 50 g di olio di cocco o burro vegetale. Per la crema al lime 350 ml di latte vegetale, 350 ml di yogurt vegetale al naturale, 100 g di zucchero di canna, 100 g di crema di cocco, 150 g di succo di lime, 50 g di amido di mais, la scorza di 2 lime, un pizzico di sale e della panna vegetale montata per decorare. Tritate i biscotti assieme allo zucchero e all'olio di cocco. Distribuite il composto sul fondo di una pirofila e pressate, quindi mettete in frigorifero a riposare. Nel frattempo unite, mescolando con una frusta, lo yogurt di soia, lo zucchero e la crema di cocco. Aggiungete il latte vegetale e un pizzico di sale. Stemperate l'amido di mais con il succo di lime ed unite il tutto all'impasto della crema. Aggiungete le scorze di lime tritate e versate il tutto nella pirofila con la base di biscotto. Infornate a 180 gradi in modalità statica per 30 minuti. Togliete dal forno e lasciate intiepidire, per poi far riposare almeno 3 ore in frigorifero. Una volta pronta, decorate con della panna vegetale montata e delle fettine di lime fresco. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Valentina Reggioli, Valentina Baronti, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.